Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sento la puzza e il sapore di olio di ricino. Lo sappiamo tutti. Oggi approviamo una nuova Costituzione, quella voluta da Licio Gelli. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il parere di Calderoli della Lega, l'avete sentito in Senato. Oggi, a proposito di questa riforma che è stata varata oggi, è vero che poi deve fare un passaggio alla Camera, la riforma del Senato, ma diciamo è quasi una formalità, che trova ingiusta quindi Calderoli imposta e probabilmente, da quello che dice, insomma, in odore di massoneria questa riforma. Comunque questa è andata, con tutte le polemiche che ci sono state, che probabilmente seguiranno. Invece sulle unioni civili c'è altissima tensione, c'è sempre uno scontro, un braccio di ferro invece interno alla maggioranza. Calderoli è opposizione al governo, appunto, rispetto anche alla riforma, mentre le unioni civili fanno discutere e creano opposizione, uno opposto all'altro, dentro la maggioranza tra PD e l'area popolare Nuovo Centrodestra. Come andrà a finire anche in questa vicenda? Pare comunque il PD abbia voluto incardinarla, come si dice, subito dopo la riforma, potrebbe essere tra domani e dopodomani, poi sentiremo. Ma a proposito di unioni civili, quello che vi voglio chiedere questa sera è poiché i centristi, diciamo, sono contrari alla stepchild adoption, perché si parla finora di adozioni, ma per adozione si intende, all'interno di una coppia dello stesso sesso, adottare il figlio naturale dell'altro, e Area Popolare e Nuovo Centrodestra sono contrari. Renzi ha detto a un certo punto: ma ci sarà la libertà di coscienza, mentre Berlusconi, per bocca di Michela Brambilla di Forza Italia, è assolutamente invece d'accordo con questo disegno di legge. Si creerebbe veramente una maggioranza, una strana maggioranza trasversale. Voi cosa ne pensate su questo argomento? Come sempre, lo sapete, potete intervenire sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi in questo momento, come sempre, giorno e notte, costantemente lì, oppure potete mandare gli sms al 349 238 6666. Parleremo di molti argomenti, come sempre, anche questa sera, dopo che vi ho riassunto in questa prima parte la giornata. Fra questi sentiremo anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, vi ricordate, ucciso nel 2009, perché ci sono delle novità. Ma cominciamo. Riforme sì del Senato al DDL Boschi, le opposizioni non votano, ora passa alla Camera e Renzi commenta: grazie a chi sogna un'Italia più forte. Unioni civili, braccio di ferro nella maggioranza tra PD e Area Popolare dopo il nulla di fatto al vertice di ieri. Dem dicono subito in aula disegno di legge dopo le riforme, libertà di coscienza, e Area Popolare dice no. Tangenti in Lombardia, arrestato il vicepresidente Mantovani, truccò le gare per il trasporto dei pazienti dializzati, domani mozione di sfiducia contro Maroni. Medio Oriente, altro sangue, in Israele 3 accoltellati e l'OLP chiama l'ONU. Economia italiana, la soglia per l'uso dei contanti sale a 3.000 euro, serve a rilanciare i consumi, assicura il Presidente del Consiglio e annuncia dal 2016 spese mediche nella dichiarazione telematica. Il caso Cucchi, altri 4 carabinieri indagati per lesioni aggravate. Questa sera Effetto Notte, la sorella del geometra morto, Ilaria. L'omicidio di Elena Ceste, tolta la responsabilità genitoriale sui 4 figli a Michele Boninconti, unico indagato per la morte della moglie. E per il calcio, per le qualificazioni agli Europei 2016, l'Italia in campo questa sera contro la Norvegia, in palio il primo posto. Partiamo quindi con la politica italiana, con il via libera del Senato al disegno di legge Boschi, che appunto riforma il Senato e il titolo quinto della Costituzione, quindi il rapporto tra Stato e Regioni. Con 179 sì è passato, con 16 no e 7 astenuti. Ora passa alla Camera, che appunto dovrà ratificare le modifiche che sono state introdotte a Palazzo Madama. Le opposizioni, Movimento 5 Stelle, SEL, Lega e Forza Italia, non hanno partecipato al voto e Renzi ha commentato su Twitter: grazie a chi insegue il sogno di un'Italia più forte. Poi ne parleremo in modo più approfondito tra poco. Sulle unioni civili, invece, vi dicevo, sale sempre di più la tensione all'interno della maggioranza tra PD e Area Popolare Nuovo Centrodestra. Intanto la conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama ha deciso di incardinare la discussione del disegno di legge domani al Senato, ma Nuovo Centrodestra e Area Popolare sul piede di guerra. C'è poi in primo piano anche la legge di stabilità. Tra le novità, cade il limite al contante. Basta carte di credito e bancomat. Fino a 3.000 euro si potranno utilizzare i contanti. Così Matteo Renzi, con la legge di stabilità, da lui definita straordinaria, manda in soffitta la soglia dei 1.000 euro introdotta dal governo Monti. Una mossa da centrodestra, dice soddisfatto Alfano, mentre Bersani accusa, si incoraggiano evasione e corruzione. Plaudono albergatori e commercianti, anche se in realtà per i non residenti c'è già una deroga a 15.000 euro. L'obiettivo è uniformarsi alla media europea, spiega il premier a RTL. In realtà la Francia ha appena abbassato la soglia da 3.000 a 1.000, mentre in 11 paesi, inclusa la Germania, non ci sono limiti. Rilanciare i consumi è l'appello di Renzi, che conferma il bonus da 80 euro. Annunciati l'intervento sulle partite IVA, sul regime dei minimi e per il 2018 sull'IRPEF. Rinviato invece ai prossimi mesi l'intervento sulla flessibilità delle pensioni per fare bene i conti. Infine il delicato capitolo sanità, con il fondo indicato a 111 miliardi di euro. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in mattinata c'è stato il sì dell'Aula della Camera alla nuova legge sullo Ius Soli. Con un'ampia maggioranza di 310 sì contro 66 no e 83 astenuti, il testo che introduce lo Ius Soli temperato e lo Ius Culture passa al voto della Camera, in attesa del vaglio del Senato. Il testo dispone che la cittadinanza per i nati in Italia da genitori stranieri potrà essere richiesta se almeno uno di essi dispone di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Questo lo Ius Soli temperato. Così come potrà essere richiesta la cittadinanza per tutti i minori nati in Italia o entrati nel nostro paese entro il 12° anno di età, che abbiano frequentato almeno 5 anni nel sistema nazionale di istruzione. E questo invece lo Ius Culture. In aula si sono opposti al progetto di legge Fratelli d'Italia, Lega Nord e Forza Italia, mentre i 5 Stelle si sono astenuti. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi l'altra notizia grossa di oggi, le tangenti in Lombardia, perché sul fronte della politica locale non c'è solo il caso Marino. Questa mattina è stato arrestato il vicepresidente della regione Lombardia, Mario Mantovani, accusato di concussione, corruzione e turbativa d'asta. Truccò anche le gare per appaltare il trasporto dei dializzati e sono in tutto 12 le persone che sono finite sotto inchiesta in questo nuovo filone, in questa sottoindagine, in questo nuovo filone di inchiesta sulla sanità lombarda. Domani sarà presentata una mozione di sfiducia da parte delle opposizioni contro Maroni. La presenteremo domattina insieme al patto civico e offriremo anche al Movimento 5 Stelle la possibilità di sottoscriverla. Così il capogruppo PD alla Regione Lombardia, Enrico Brambilla, annuncia la presentazione della mozione di sfiducia per Roberto Maroni, colpevole, secondo Brambilla, di non avere saputo garantire alla Regione la svolta necessaria. Diciamo, non ha fatto tutto ciò che era necessario fare per consegnare ai lombardi una regione davvero trasparente. Un atto che il PD metterà a disposizione anche dei 5 Stelle, prima ad annunciare la volontà di depositare un simile documento. Dario Violi, capogruppo 5 Stelle alla Regione Lombardia. L'augurio che anche la maggioranza la voti e che si finisca questa legislatura che non ha fermato scandali, corruzione legato soprattutto alla sanità. La maggioranza è compatta attorno al presidente Maroni, fa però sapere il presidente del Consiglio regionale lombardo Raffaele Cattaneo, dopo che Roberto Maroni si è detto stupito dell'arresto di Mario Mantovani, aggiungendo che gran parte delle contestazioni rivolte al suo vice sono estranee all'incarico che aveva in regione. Solidarietà a Mantovani è stata espressa da Forza Italia, così Silvio Berlusconi. Conosciamo Mantovani come una persona corretta e quindi siamo in attesa di notizie. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo ci torneremo su questo ennesimo scandalo che riguarda la sanità. Per quanto riguarda invece la capitale Roma, oggi è arrivata la Guardia di Finanza in Campidoglio. Muove i primi passi a Roma l'inchiesta sulle spese sospette di Ignazio Marino. Nella tarda mattinata i militari della Guardia di Finanza si sono presentati negli uffici della Ragioneria Generale del Campidoglio per acquisire scontrini e ricevute delle cene e di altre spese pagate dal sindaco dimissionario con la carta di credito del comune, materiale che finirà nel fascicolo aperto dalla procura dopo le denunce presentate da Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato. Dopo la formalizzazione delle sue dimissioni, partiti e istituzioni lavorano intanto al dopo Marino. Entro il 2 novembre il prefetto Gabrielli dovrà comunicare il nome del commissario che traghetterà la capitale verso il voto che si terrà nel 2016 tra aprile e giugno assieme alle altre città, ha fatto sapere oggi il premier Renzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E prima di passare alle altre notizie dobbiamo collegarci subito con Roma, con Dario Ricci, perché mi sa che c'è un gol tra Italia e Norvegia. Dario, buonasera. È Sì, buonasera Roberta, dall'Olimpico, siamo al 25esimo di gioco, il gol c'è stato ma non è azzurro, è norvegese, sono appunto gli ospiti che sono passati in vantaggio al 22esimo, c'è stato un cross in aria da una punizione della tre quarti, la respinta della difesa azzurra, bravo il numero 5 Tettei a intervenire di controbalzo e a calciare con un bel sinistro al volo alle spalle di Buffon, partita più importante per i norvegesi che per noi in verità, perché noi siamo già qualificati grazie al successo in Azerbaigian di sabato scorso, la Norvegia però ha bisogno di questa vittoria perché deve difendere i due punti di vantaggio sulla Croazia che a sua volta è in vantaggio per 1-0 su Malta, quindi i norvegesi ce la stanno mettendo tutta, peccato però il vantaggio visto che comunque l'Italia pur in formazione rimaneggiata era partita molto bene, già al primo minuto Pellè di testa è andato vicinissimo al vantaggio e poi ci hanno provato anche senza troppo successo Soriano ed Eder. Comunque siamo al 27esimo di gioco qui all'Olimpico, Roberta, sotto una leggera pioggerellina davanti a circa 20.000 spettatori, Italia 0 Norvegia 1. Grazie De Ricci, a dopo, piove anche un po' a Milano, piovigine ancora un po', adesso però ritorniamo invece sulle notizie di altra natura, ci spostiamo sulle notizie dall'estero, in Medio Oriente, con nuovi attentati in Israele in poche ore. Attacchi quasi contemporanei hanno colpito questa mattina Israele, 2 Gerusalemme, 1 Tel Aviv. Il primo quando due assalitori sono saliti su un autobus ad Armon Hanatz via Gerusalemme Est, la parte palestinese della città, e hanno cominciato a sparare sui passeggeri e ad accoltellarli. Due sarebbero le vittime, stando alla BBC, così come sarebbero morti due aggressori colpiti dalla polizia. Qualche minuto dopo, a Marca Israel Street, in un quartiere ultraortodosso di Gerusalemme Ovest, un uomo si è lanciato con un'auto contro i pedoni alla fermata di un bus, uccidendo una persona. Poi è sceso, ha cercato di colpire i passanti con un coltello, è stato colpito dalla polizia, ferito, è stato catturato. Un terzo attacco era avvenuto poco prima a Ra'anana, un sobborgo a nord di Tel Aviv, dove un passante è stato accoltellato da un palestinese, poi bloccato dalla gente sul posto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora di nuovo in Italia con la cronaca, ci sono novità sul caso della morte di Stefano Cucchi che è avvenuta nell'ottobre 2009, vi ricordate, nel reparto detenuti dell'ospedale Pertini, è avvenuta una settimana dopo essere stato arrestato per droga. Ci sarebbero altri 4 carabinieri indagati per la sua morte, poi dovremo raggiungere la sorella di Stefano Cucchi che sapete porta avanti questa battaglia per cercare la verità da anni, dovremo raggiungerla qui a effetto notte tra poco. Per la cronaca c'è anche una novità sul caso dell'omicidio di Elena Cesta. Il Tribunale dei Minori di Torino ha tolto la responsabilità genitoriale nei confronti dei 4 figli a Michele Buoninconti, l'uomo accusato, marito di Elena Cesta, accusato della sua morte. Lo rende noto all'ANSA l'avvocata Chiara Girola, che assiste il vigile del fuoco accusato dell'omicidio della moglie. Il legale annuncia ricorso contro una misura, dice, eccessiva che arriva prima della sentenza del giudice. E poi per finire una notizia che riguarda Twitter, i social network. Twitter taglia dell'8% i posti di lavoro, un taglio fino a 336 dipendenti, parlano di decisioni difficili ma necessari per risparmi per 10-20 milioni di dollari, e pensate il paradosso, almeno per diciamo chi sta dall'altra parte, schizza il titolo in borsa, a proposito di volo, abbiamo avuto in alto, a più 5%, e intanto Google si conferma il posto più bello al mondo dove lavorare, sono fortunati quelli di Google. E intanto do un'occhiata prima della viabilità ai vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Note sia al 349-238-6666. A proposito della riforma passata oggi del Senato e del commento di Calderoli, Clotilde dice: mi dispiace, dà ragione a Calderoli, ma basta andarsi a leggere il piano di rinascita del piduista per rendersi conto che è così. E poi a proposito di Gelli, dice che c'è odore di Gelli Calderoli, no? Lucio Gelli. Licio Gelli. Poi invece Emilia scrive: mezza verità di Calderoli, mafia, massoneria, Opus Dei al trionfo nei posti chiave, ai serva Italia di Dolore Ostello. E poi invece sulle unioni civili e su questo in particolare che vi chiedo le vostre opinioni questa sera, sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, tra l'altro sulla pagina di Effetto Notte ho messo anche un insieme di ricerche, c'era un riepilogativo dell'ANSA molto interessante che portava una serie di ricerche sia all'estero che in Italia su come crescono i bambini bambini all'interno delle coppie dello stesso sesso. Guardatelo proprio sulla pagina Facebook di Effetto Note, lo ritrovate questo post. Intanto le vostre opinioni. Cristiano, il timore del nuovo in realtà non se ne importano nulla, il crollo sicuro di un granitico elettorato ortodosso, questo ci importa, gli importa, strideranno sempre in certe zone politiche rispetto alle spinte realismi, alle istanze propri, è sempre lungo Cristiano, di queste esperienze umane. Poi Luca dice, statali, la Madia offre 10 euro al mese lordi in Lombardia, arrestato Mantovani, e poi la riforma, una legge che prende il nome della Boschi, votata da Verdini e voluta da Napolitano, non è un incubo, è la realtà. Vabbè, si muove su altre cose Luca. Federica dice, sono favorevole alle unioni civili, è una vergogna che si sia aspettato tanto. Voi aspettate pochissimo, ci sentiamo. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, prima di cominciare man mano con gli ospiti, con i vari argomenti, vi ricorderò tra pochi istanti le notizie più importanti della giornata, ancora i vostri messaggi tra il 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte sulla questione delle unioni civili e della stepchild adoption. Mario scrive, io faccio parte della minoranza contraria, bambini e bambine devono crescere in una famiglia normale, scrive tra virgolette, possibilmente con un padre e una madre, situazioni pasticciate possono solo confondere i bambini e bambine con danni alla loro crescita psicologica. Vi invito ad andare a vedere le ricerche riportate da un riepilogativo dell'ANSA, molto interessante, straniere e anche italiane, che ho messo sulla pagina Facebook del programma. Poi Federica scrive, ho conosciuto bimbi di coppie gay, non ho notato differenze, i bimbi si fanno meno problemi di noi, sono favorevole sia alle adozioni LGBT che a quelle di single, ovviamente ben selezionati come dovrebbe essere in ogni caso. E poi via gli altri messaggi tra poco, ma quali sono le altre notizie importanti della giornata? Il via libera alle riforme, di cui parleremo tra pochissimo, e poi il braccio di ferro sulle unioni civili, PD contro, insomma, tra loro all'interno della maggioranza, il PD e l'area popolare, che sono ai ferri corti, mentre la Camera approva la legge sulla cittadinanza. Sì, dunque, allo Ius Soli. E poi una nuova bufera che riguarda le tangenti relativa alla sanità sulla Lombardia. Ha arrestato il vicepresidente Mantovani, la Guardia di Finanza in Campidoglio per gli scontrini di Marino, e poi la soglia per l'uso dei contanti nella legge di stabilità che sale a 3.000 euro. Altro sangue in Israele, 3 accoltellati, l'OLP chiama l'ONU, e poi lo avete sentito, c'è l'Italia contro la Norvegia in campo per gli europei 2016, per ora l'Italia è sotto di un gol. Ci si avvia a poter garantire, almeno per aspetti essenziali, quella stabilità e continuità nell'azione di governo che non può più mancare, con grave danno per il Paese, in un futuro come quello che è già cominciato. Io sento la puzza e il sapore di olio di ricino. Lo sappiamo tutti. Oggi approviamo una nuova Costituzione, quella voluta da Licio Gelli. Questi pareri completamente opposti, naturalmente, uno di Napolitano, l'altro di Calderoli della Lega, sulla riforma del Senato approvata oggi dal Senato stesso, che però dovrà passare, ma insomma è quasi una formalità, dalla Camera. Il via libera dell'Aula al disegno di legge delle riforme costituzionali, quindi la riforma del Senato e del titolo quinto della Costituzione, è arrivata con 179 sì, 16 voti contrari, 7 astenuti. Le opposizioni, Movimento 5 Stelle, SEL, Lega e Forza Italia, non hanno partecipato al voto, però come probabilmente ci confermerà sicuramente Betta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Betta. Buonasera a tutti. Sarà non prima del 2020, quindi un po' di tempo ancora ce l'abbiamo, se non addirittura nel 2022, che il nuovo Senato previsto dal DDL Boschi entrerà a regime? Ma questo adesso vediamo, intanto andiamo step by step. Sì, step by step. Questo era il nodo più difficile per Matteo Renzi, perché è il nodo al Senato dove, diciamo, i numeri non sono così ampi per la maggioranza, per cui insomma Matteo Renzi ha dovuto poi stringere un accordo con l'opposizione interna, cioè con la minoranza democratica, sulle elezioni del Senato non elettivo. In pratica ci sarà un listino a parte nei consigli regionali per votare questi consiglieri regionali che diventeranno anche senatori. Ricordiamo, si parla del Senato di 100 e che vengono eletti tutti quanti dai consigli regionali, e quindi è la fine del bicameralismo paritario. Il Senato non darà la fiducia al governo, e quindi di fatto è una riforma che scardina quella che era uscita dall'Assemblea Costituente. È una vittoria a metà. Il dato politico di oggi è che è una vittoria a metà per Matteo Renzi, cioè c'è il fatto che tutte le opposizioni non hanno partecipato al voto. Questo è un po' stride, no? Nella democrazia magari meglio votare no, no? Ma invece ovviamente noi parliamo di 179 sì e 17 no, è perché l'opposizione non ha partecipato al voto, no? E questo vuol dire due cose: un po' che Matteo Renzi è stato costretto a fare la riforma a colpi di maggioranza, che era quello che il PD quando stava in opposizione contestava poi a Forza Italia e alla Lega, e l'altra è la questione fondamentale: si deve fare così per forza perché altrimenti non si riesce tutti quanti a mettersi insieme a cambiare la Costituzione? Ecco, questo è un po' il domandone di questa sera, capito, Roberto? Dall'altra parte io credo che gli italiani, e su questo Renzi è molto bravo, cioè molto bravo a sentire, no, il fiuto, di sentire il polso del paese, dall'altra parte penso che gli italiani vogliano, nella maggior parte, però io qui ci sarà poi un referendum, qui esprimo. E dopo ci deve essere anche il referendum, infatti, no, Betta? Certo, che lui indirà, perché deve esserci un referendum confermativo secondo l'articolo 138 della nostra Costituzione, se questa riforma non passa con i due terzi del Parlamento. Confermativo che però non ha bisogno del quorum, no? Andammo a votare per un referendum confermativo che era quello del centrodestra e fu bocciato. Però il problema è un altro, il problema è bisogna poi alla fine fregarsene un po' di tutti, come fa Matteo Renzi, per portare a casa il risultato. Questo saranno i cittadini a deciderlo, perché comunque Matteo Renzi ha già detto che farà un referendum. A questo referendum chi vorrà cambiare come Matteo Renzi o come il PD voterà sì, chi invece pensa che questa riforma non sia giusta perché dà l'olio di ricino secondo Calderoli, perché c'è il rischio di dare tutto in mano al potere esecutivo, voterà no. Di certo che però ricordiamoci che questo referendum si baserà solo su coloro che vanno al voto, cioè se vota il 20% vale quello, 20%. Quindi non è invalidato se non si raggiunge il 50% degli elettori più uno. Ecco, non c'è bisogno del quorum, questo è chiaro. Non c'è bisogno del quorum. Betta, per chiudere, a parte che qualcuno già polemizza sul fatto che verrà data l'immunità parlamentare a consiglieri regionali e sindaci che diventeranno tra virgolette i nuovi senatori, però invece sull'Unione Civili una battuta, mi sembra che il percorso... Ho sentito l'intervento di quel radioascoltatore che ha scritto: i bambini devono avere un padre, una madre. Io direi una cosa: intanto oggi a livello politico, come analisi, Matteo Renzi ha detto si va avanti, e anche qui insomma lo vogliamo rinnovare questo paese o non lo vogliamo rinnovare, e lui è cattolico, praticante, insomma, quindi anche un impegno contro una parte un po' tradizionale, non vorrei dire conservatore del paese, conservatrice del paese, e anche un impegno diverso da quello che è il Vaticano. Dall'altra parte c'è il fatto che un po' ha promesso al nuovo centrodestra questo innalzamento del contante a 3.000 euro, che è una battaglia che fa il nuovo centrodestra. Quindi uno scambio insomma tra coppie, Unione Civile e sì, l'aumento del contante. Vabbè. Personalmente vorrei dire a quel radioascoltatore che ha detto una famiglia, madre, padre, io direi che se ci guardiamo intorno ho tutti i miei amici... 90%, non vorrei dire 90%, ma insomma una buona percentuale, separati, con famiglie allargate, con persone che sono cresciute magari con lo zio e il compagno perché erano omosessuali e li hanno fatto da padre e da madre. Insomma, questo dire una famiglia deve essere madre, padre, mi sembra un pochino anacronistico. La nostra società sta in un'altra fase, e secondo me personalmente bisogna andare avanti anche sulla step child adoption. Questo non è un'analisi, ma è veramente un parere personale. Grazie, grazie Betta Fiorito. Ciao Betta da Roma. Ciao. Arrivederci. Buona politica. Adesso parliamo invece a livello più locale di questa inchiesta in Lombardia della Procura di Milano, che avrebbe scoperchiato l'ennesima vicenda di tangenti e appalti truccati, e per l'ennesima volta, tra l'altro sempre nel settore così prolifico della sanità. Un'inchiesta che ha portato all'arresto del vicepresidente della Regione Lombardia, che è ed ex assessore tra l'altro della sanità, ex coordinatore di Forza Italia Mario Mantovani, accusato di concussione, corruzione e turbativa d'asta. Truccò, pare, le gare per appaltare il trasporto dei dializzati, e oggi fra l'altro era atteso alla giornata della trasparenza. Un assessore regionale dunque che alla salute, ex assessore alla salute, che speculava sulla salute dei malati. Chiedo ad Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore. Ciao Angelo. Ciao, buonasera. Ma questo emerge un po' dall'inchiesta della Procura di Milano. Poi chiaramente sarà tutto da verificare chiaramente. Certo. Anche se questa è un'inchiesta che è durata anni e si è svolta anche con numerose intercettazioni telefoniche, ambientali, quindi insomma c'è parecchio materiale che i magistrati dovranno adesso esaminare, perché gli uomini della Guardia di Finanza di Milano hanno fatto un lavoro approfondito su diversi episodi. Quindi è un'inchiesta molto documentata, e questa è arrivata all'apice, questo arresto di questa inchiesta. Fra l'altro è stato arrestato Mantovani in qualità di senatore, cioè era senatore, sottosegretario di Stato, assessore regionale alla salute e sindaco di Arconate all'epoca dei fatti contestati. Aveva tutti questi incarichi. Sì, beh, Mantovani è famoso per essere un collezionista di incarichi, e anche dopo aver lasciato l'assessorato alla salute della Regione Lombardia ad agosto, adesso aveva preso la responsabilità di un altro assessorato, oltre a essere ancora vicepresidente della Regione. Non era più sindaco di Arconate da un anno, però insomma questi sono fatti che lui avrebbe commesso nell'arco di un periodo di un paio d'anni, mentre assommava su di sé tutte queste cariche. Non c'è solo lui ad essere stato coinvolto. Infatti, sono 12 persone finite sotto indagine, no? C'è anche un, questo è importante, c'è anche, ed è indagato, non è arrestato, ma solo indagato, l'assessore regionale all'economia, Garavaglia, un leghista molto di peso, è componente del consiglio di amministrazione anche della Cassa Depositi e Prestiti. Lui insieme a Mantovani sarebbe accusato di aver pilotato proprio quella gara d'appalto per il trasporto dei pazienti che sono sottoposti a dialisi, in modo da favorire una onlus del territorio di Mantovani e di Garavaglia, cioè il territorio nel quale i due assessori prendono i voti sostanzialmente. C'è poi un altro aspetto, scusami, ma questo è molto importante, perché l'inchiesta ha un po' rivelato una rete di società, sono soprattutto onlus, sono fondazioni, nelle quali Mantovani non ricopriva più cariche, ma secondo i magistrati in realtà dietro a queste società sono 9-10, si celerebbe ancora lui, ci sono società che in qualche modo continuano a fare i suoi interessi e che Mantovani continuava a gestire attraverso prestanomi, e attraverso queste società sarebbero state le società sarebbero state beneficiarie un po' di queste presunte tangenti. Ecco, tangenti, non si tratta di soldi, in realtà Mantovani non è accusato di aver preso cambio di appalti, di poi lavori in casa, sì, ecco, no? Sono quelle che in termine giuridico si chiamano altre utilità. Sostanzialmente qui è il caso soprattutto di un architetto, il suo architetto di fiducia avrebbe svolto una serie di lavori di ristrutturazione delle sue numerose abitazioni vicino a Milano, sono quasi tutte di dimore storiche, insomma sono abitazioni che hanno un valore cospicuo, dicono i magistrati. e avrebbe ottenuto in cambio questi lavori, consentendo al suo architetto di fiducia di ottenere poi anche appalti pubblici. Tra l'altro, per chiudere, Angelo Micuzzi, bisogna dire che Maroni, presidente della regione, si è limitato a dire che è stupito di questo arresto e che naturalmente spera che possa dimostrare Mantovani la sua correttezza. Dopodiché però per domani le opposizioni in Regione Lombardia si preparano a chiedere le dimissioni del governatore Maroni, no? Ma questo arresto arriva come una bomba, perché non è l'unico caso giudiziario. Non dobbiamo dimenticare che anche Maroni è sotto inchiesta. Il 1° dicembre si aprirà il processo a suo carico, perché Maroni è accusato di aver favorito due sue ex collaboratrici per ottenere degli incarichi pubblici, e quindi anche Maroni è nell'occhio del ciclone. I vertici della Regione Lombardia in questo momento si trovano coinvolti in inchieste giudiziarie. Il problema di una giunta è un po' azzoppata. Sì, ma in Lombardia abbiamo anche l'esempio di Formigoni, predecessore di Maroni. Insomma, siamo abituati. Ecco, grazie Angelo Micuzzi. Grazie a te. Ciao Angelo. Adesso vi lascio brevemente, ci ritroviamo tra pochissimo. Continuo i vostri messaggi sulle unioni civili, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666. A rientro dovremo riuscire a raggiungere la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, per parlare appunto delle novità nell'inchiesta. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Brian Wilson, dai Beach Boys alle sue grandi opere passando attraverso la follia. Carlos Monzoni, il pugile bello e maledetto destinato a una fine terribile. Amelia Earhart, la donna che inseguì i suoi sogni fino all'ultimo volo. Jean-Claude Roman, l'uomo che per difendere le sue bugie sterminò la sua famiglia. E la meravigliosa storia di Peter Norman, l'atleta bianco che si schierò con i neri per cambiare la storia. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Ok Google, imposta sveglia, Il Falco e il Gabbiano, 15:30. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, con me i vostri messaggi che si dibattono tra chi è contrario e chi è favorevole all'unione civile, più che altro che all'unione civile, alla stepchild adoption, cioè all'adozione all'interno della coppia dello stesso sesso del figlio naturale dell'altro. Per esempio sulla pagina Facebook, anche al 349-238-6666, Renzo da Imperia: no alle adozioni uomo, per nascere ci vuole un uomo e una donna, quindi anche per crescere, ma sì alle unioni civili. E poi Max: single e gay partecipano con le loro tasse a garantire i contributi previsti per famiglie conformi e coppie sposate? Se sì, allora anche loro ne hanno diritto. Vi ricordo allora, prima di passare al prossimo argomento e al prossimo ospite, gli argomenti principali della giornata. Riforme sì del Senato al DDL Boschi, le opposizioni non votano, ora passa alla Camera, e Renzi commenta: grazie a chi sogna un'Italia più forte. Unioni civili, braccio di ferro nella maggioranza tra PD e Area Popolare dopo il nulla di fatto al vertice di ieri. I Dem dicono subito in aula il disegno di legge dopo le riforme e libertà di coscienza, ma Area Popolare dice di no. Tangenti in Lombardia, arrestato il vicepresidente Mantovani, truccò le gare per il trasporto dei pazienti dializzati, domani mozione di sfiducia contro Maroni. Medio Oriente, altro sangue in Israele, le tre accoltellati, e l'OLP chiama l'ONU. Economia italiana, la soglia per l'uso dei contanti sale a 3.000 euro, serve a rilanciare i consumi, assicura il Presidente del Consiglio, e annuncia dal 2016 spese mediche in dichiarazione telematica. Il caso Cucchi, altri 4 carabinieri indagati per lesioni aggravate, ne parleremo tra pochissimo. E poi per il calcio, agli Europei 2016, in campo per le qualificazioni, l'Italia contro la Norvegia, per in palio c'è il primo posto, però pare che per il momento sia avanti la Norvegia di un gol. Occupa occupiamoci di questi nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, vi ricordate, avvenuta nell'ottobre 2009 nel reparto detenuti dell'ospedale Pertini, una settimana dopo essere stato arrestato per droga. Ci sono, altro, questa è la novità, altri 4 carabinieri indagati, 3 militari sono indagati per lesioni aggravate, l'altro per falsa testimonianza. La Procura di Roma contesta appunto queste lesioni aggravate ad Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco. Si tratta dei militari che parteciparono alla perquisizione in casa del geometra al suo trasferimento nella caserma Appia, durante il quale potrebbe essere stato picchiato. Mentre Vincenzo Nicolardi è accusato di falsa testimonianza, che è lo stesso reato per il quale è indagato il maresciallo Roberto Mandolini, ex vicecomandante della stazione di Tor Sapienza. In tutto quindi sono 5 i carabinieri indagati. Ne parliamo con Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi. Buonasera Ilaria. Buonasera. Quindi questa in realtà è l'inchiesta bis della Procura di Roma sulla morte di Stefano, mi sembra, no? Sì, e questa potrebbe essere la svolta per la verità su Stefano. Perché dopo c'era stata l'assoluzione in corte d'appello di medici e agenti della penitenziaria e poi, siccome voi continuate a sollecitare, la Procura di Roma si è mossa dietro vostro esposto, no? Dietro l'esposto della famiglia Cucchi. Guardi, in questi mesi io ho trovato qualcosa che non conoscevo, c'è stata una forte collaborazione tra noi, la nostra famiglia, il nostro avvocato e la Procura di Roma. Io sono convinta che sì, questo è dovuto sicuramente molto al nostro apporto, ma sono anche convinta che un grande lavoro è stato fatto dal dottor Pignatone e dal dottor Musarò e sono sicura che ci saranno ancora delle novità, che ci sono ancora cose che non sappiamo. Pignatone è capo della Procura di Roma, quindi cominciate ad avere fiducia, speranza di arrivare alla verità, Ilaria Cucchi? Sì, l'ho detto prima, io conosco in questi mesi qualcosa che non avevo mai conosciuto, chi ha seguito la nostra vicenda sa cosa è stata la nostra lotta. Bene, oggi io sento di poter avere fiducia in qualcuno oltre che nel mio avvocato. Avvocato tra l'altro Fabio Anselmo, che è stato anche qua in passato a Effetto Notte, che oggi ha dichiarato non sono solo loro i veri responsabili della morte di Stefano, quindi in coerenza con quello che lei diceva ci sono cose ancora che devono emergere in questa inchiesta bis. Sì, intanto io sono sicura che il dottor Pignatone e il dottor Musarò dimostreranno che quelle persone sono responsabili della morte di mio fratello. E ripeto, sono sicura che usciranno fuori tante altre cose, perché troppe cose sbagliate, troppe cose strane sono avvenute in questi 6 anni e in questo processo. Ora io voglio guardare avanti, voglio riacquistare la speranza e voglio tornare a credere che anche per mio fratello, che in fondo è morto di giustizia, non se lo dimentichiamo, perché è morto in quell'aula di tribunale durante l'udienza pregiudizialissima, quando stava male, quando io l'ho ascoltata la registrazione di quell'udienza, ho ascoltato la sua voce sofferente, era davanti a un giudice, a un pubblico ministero che non si sono accorti di niente e che l'hanno sbattuto in carcere come albanese senza fissa dimora, sulle basi di un verbale del tutto sbagliato redatto da quei carabinieri che effettuarono l'arresto. Io voglio credere che anche per lui possa esserci giustizia. Ormai è diventato un caso esemplare il vostro, no? E quindi altri vedono anche in voi, famiglia Cucchi, un faro di speranza anche per loro, per arrivare alla verità anche di altri casi. Io credo che piano piano, a piccoli passi, ma con un'enorme fatica, forse stiamo riuscendo a buttare giù quel muro fatto di omertà, quel muro fatto di coperture, di silenzi, di uno Stato che è sempre teso a proteggere se stesso e che troppo spesso dimentica la cosa più importante, il valore fondamentale della vita, dell'essere umano. Grazie allora Ilaria Cucchi e buona grazie tenacia, insomma, grazie. Grazie. Viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, stavo guardando ancora i vostri messaggi, sono tantissimi su questa storia dell'Unione Civile, in particolare della Stepchild Adoption. Ilaria scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Ilaria e Luisa, Roberta, mi sa che di dilazione, qui arriveremo a discutere sull'adozione degli Step Grandchildren Adoption, cioè quando diventeranno grandi. La verità è che in Italia né destra né sinistra hanno veramente voluto mettere mano alla questione, c'è l'atavico terrore di perdere i voti cattolici. Giorgio Zerda dice, alla maggioranza dei gay non interessano le nozze gay, in Francia dopo l'approvazione si è arrivato rivelato un flop, la legge sulle nozze gay solo lo 0,4% si sposa e ognuno insomma porta i suoi a documentazione una serie di cose. Vi invito, se volete, il penultimo post che ho messo sulla pagina Facebook di Effetto Notte riassume una serie di ricerche all'estero e in Italia su come crescono i bambini dentro le coppie dello stesso sesso. Però adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Le riforme, sì del Senato al disegno di legge Boschi, le opposizioni non votano, ora passa alla Camera e Renzi commenta: grazie a chi sogna un'Italia più forte. E poi sulle unioni civili avete sentito questo braccio di ferro all'interno della maggioranza tra PD e Nuovo Centrodestra, e poi nuova bufera delle tangenti sul tema della sanità, nel settore della sanità nella Lombardia, arrestato il vicepresidente della regione Mantovani, truccò le gare per gli appalti del trasporto per i dializzati e le opposizioni chiederanno per domani le dimissioni del presidente Maroni. Poi nella legge di stabilità la soglia per l'uso dei contanti sale a 3.000 euro, dice Renzi, per il rilancio dei consumi. Continuano le violenze in Israele, 3 accoltellati oggi e l'OLP chiama l'ONU. E poi per la partita Italia-Norvegia dovrebbe essere sempre 0-1, mi viene confermato. Sì, allora passiamo allo spazio europeo. Europa 24 notte. La normativa sul fumo, di questo parliamo, è stata rivista dall'Europa nel febbraio-marzo dell'anno scorso, del 2014. Si è trattato della revisione delle misure entrate in vigore nel 2002. A questo punto i paesi europei hanno avuto 2 anni di tempo a disposizione per adeguarsi. L'Italia ha varato proprio ieri il decreto che diventerà legge entro Natale. I paesi europei che hanno avviato la recezione della normativa sono 7-8, così dice il presidente della Commissione ENVI del Parlamento Europeo, Giovanni Lavia. Lo sentiamo al microfono di Valeria De Rosa. Nel 2014 abbiamo fatto questa direttiva europea e ora ogni paese membro la deve introdurre nel proprio ordinamento giuridico, quindi questo ricevimento prevede una serie di novità. Le novità sono da un lato il divieto di utilizzo di aromi caratterizzanti, quindi le sigarette al mentolo di fatto scompariranno, le avvertenze combinate, quindi avremo sia immagini che testo, quindi per adesso abbiamo solo il testo sui pacchetti di sigarette, avremo anche delle immagini shocking per far capire che il fumo nuoce realmente alla salute. Avremo la revisione delle direttive rispetto alle confezioni unitarie, quindi scompariranno dalla vendita i pacchetti da 10 sigarette e piccole confezioni di tabacco. Ci sarà il divieto di vendita a distanza dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai consumatori e cambiano le disposizioni relative alle sigarette elettroniche, per cui avremo un quadro di norme nuove. Cambia anche le disposizioni finalizzate alla tutela dei minori, quindi il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza, il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali, istituti di ricovero di cura e così via. Quindi avremo anche una verifica per esempio dei distributori automatici, di norma al momento dell'installazione periodicamente al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi di rilevamento dell'età dell'acquirente. Negli anni certamente tutto quello che è stato fatto a livello europeo ha contribuito a far scendere la percentuale, diciamo il numero dei fumatori, però l'incidenza delle malattie legate al fumo, soprattutto il tumore ai polmoni, è ancora molto molto forte. Non c'è dubbio che abbiamo fatto tanto, ma dobbiamo continuare a farlo e dobbiamo rendere consapevoli i consumatori che fumare fa male e nuoce alla salute. Penso che le immagini scioccanti che ci saranno sui pacchetti di sigarette potranno contribuire in questa direzione a dare un quadro di informazione ancora migliore ai consumatori, soprattutto a quelli più giovani che si approcciano per le prime volte al consumo. Vorremmo che ci fosse una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovani. Visto che era stato dato tempo 2 anni ai paesi europei per recepire e implementare le misure relative alla normativa sul tabacco, a che punto siamo? Abbiamo ancora 7-8 paesi che hanno avviato il recepimento, gli altri sono in corso di recepimento, quindi sono in attività ma ancora non hanno decreti di recepimento della direttiva comunitaria. Devo dire che è un percorso complesso, in realtà si danno degli anni anche perché ci sono delle ragioni tecniche e in primo luogo bisogna adattare le nuove procedure di stampa, bisogna eliminare gli stock di vecchi pacchetti esistenti che non sono conformi alla nuova normativa. Per questa ragione di solito i tempi di transizione si utilizzano quasi tutti. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Che cosa avrà combinato nel frattempo l'Italia contro la Norvegia per le qualificazioni europee 2016? Ce lo dice da Roma in diretta Dario Ricci. Che fa Dario? Sì, ben ritrovata Roberta. Niente da fare, siamo sempre 1-0 per i norvegesi in virtù del gol che ho raccontato precedentemente, quel sinistro al volo dal limite dell'area di Tettei al 23esimo. Peccato, perché finora si è vista una bella Italia che ha avuto almeno 6 occasioni da gol prima e dopo il vantaggio norvegese, almeno 4 capitati sulla testa di Pelé, che o è stato impreciso o ha trovato un formidabile Nyland, il portiere norvegese, a dirgli di no. Bravo Nyland anche alla fine del primo tempo a respingere uno splendido destro al volo di Florenzi. Siamo ora al 51esimo di gioco, Italia 0, Norvegia 1, decide finora la rete di Tettei al 23esimo. Grazie Dario Ricci e buon divertimento lì a Roma all'Olimpico. Mentre intanto, prima di lasciarci, volevo vedere qualche altro vostro messaggio. C'è Giorgio Zerda che ha monopolizzato praticamente la pagina Facebook di Effetto Notte con tutti i suoi messaggi contro la stepchild adoption, poi ce ne sono diversi altri a favore. Per esempio stavo guardando anche questo di non Federico, l'ho letto prima, Michele: cara Roberta, noi omosessuali, se vogliamo crescere un figlio non siamo sprovveduti, siamo ben preparati ad ogni cosa, anche e soprattutto l'enorme sborso economico, in quanto la mancanza di riconoscimento dei diritti civili ci costringe ad emigrare. Poi Giuseppe scrive: adottare un bambino per una normale famiglia è molto difficile, pieno di ostacoli. Pensate che per una coppia gay è tutto facile? L'ultima parola aspetta i giudici. In realtà qui non si comprende che non è adottare un bambino orfano, che pure insomma avrebbe bisogno di una coppia etero-homo, insomma di stare con qualcuno, ma della stepchild adoption, cioè di adottare il figlio naturale dell'altro partner. È una cosa un po' diversa. Un po' di confusione c'è. Voi andate sulla pagina Facebook a guardare anche quel post sugli studi sui bambini che crescono all'interno delle coppie dello stesso sesso. Io vi lascio perché ci ritroviamo poi alle 22 per gli aggiornamenti.